Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, due buoni risultati per Milan e Roma nella prima delle tre giornate di Coppa e non poche indicazioni sulle potenzialità di queste due squadre. Cominciamo dal Milan, sentendo prima il commento di Allegri sul pareggio. La squadra poi ha fatto una buona partita, abbiamo avuto occasioni anche per vincere, non siamo riusciti. E uscire da questo campo stasera imbattuti è una cosa molto importante. È stato molto bravo l'attaccante, a saltare, la palla è passata in mezzo alle gambe di Nesta, e è una situazione che durante una partita può capitare. Credo che siamo ancora all'inizio, stasera abbiamo giocato anche con un modulo diverso e quindi sono contento di quello che hanno fatto. Ho finalmente visto, scrive Andrea Lapavullo, un bel Milan senza Ronaldinho, più scattante, non ancora bello in assoluto, ma sicuramente più equilibrato, un Milan più allegro. Questa è un'osservazione di un ascoltatore che si può condividere entro certi limiti, direi. Marco da Crema invece scrive: può dire a Gagliani che l'arbitro il gioco l'ha fermato perché il pallone era 4-5 metri dal punto del fallo, visto che se lo sta chiedendo da ieri sera, ma gli aggiunga anche di smettere di criticare gli arbitri, visto che prima della partita lui stesso aveva elogiato il diverso clima che si respira in campo europeo. Ci spostiamo a Roma e sentiamo il commento alla vittoria sui rumeni di Ranieri. La prestazione, sono soddisfatto. Dopo la partita vittoriosa contro l'Inter era importante riaprire la nostra Champions League e dovevamo vincere. Abbiamo vinto, abbiamo fatto una buona gara perché sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato, abbiamo fatto girar palla velocemente, però poi dopo al momento opportuno nel primo tempo non ci siamo trovati. Fortunatamente il ragazzo Traoré, che è molto bravo, molto giovane, ha voluto tirare invece di appoggiare al suo compagno sulla linea di porta e lì ci ha graziato. Poi abbiamo fatto anche il secondo tempo molto bello e siamo stati bravi, intelligenti a far gol su quel calcio d'angolo e poi subito c'è stato quel gran gol di Borriello. Beh, insomma, è della serie tutto bene quel che finisce bene, perché non so, o era un'altra partita oppure io ho visto una Roma presa a pallate dal Cluj o Clujì, che dir si voglia, per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo ma anche nel finale. Ho visto due gol della Roma avventurosi, nel senso che il primo è uno schema ma è abbastanza casuale, il secondo è un capolavoro assoluto di Borriello, ma un capolavoro vero. Poi c'era probabilmente qualche centimetro di fuorigioco che non inficia la prodezza, perché Borriello non se ne può accorgere, sta guardando alle sue spalle il De Rossi che lo lancia, e calcolare esattamente il punto d'impatto di un pallone verticale che ti arriva dalla stessa parte, non incrociato, dove è più facile appunto avere la sensazione e trovare l'impatto e l'istante, la frazione di centesimo di secondo giusto, ma trovarlo a quel modo, l'impatto, e metterla dall'altra parte al volo come l'ha messa, è un gol sensazionale. Ora, a maggior ragione, visto che appunto si parlava di considerazioni, tra poco cominceranno ad arrivare le vostre all'800 24 00 24, si è capito a maggior ragione ieri sera che senso abbia avuto l'operazione Borriello nella costruzione di una Roma nuova, o comunque di una Roma rinnovata e rinforzata. Si capisce sempre meno ogni volta che lo si, non dico vede, ma intravede che cosa significasse l'operazione Adriano, perché sinceramente credo che il suo solo stare in campo sia oltre i limiti dell'imbarazzante, a parer mio, dal profilo in giù, dal profilo alla dinamica, alla presunta dinamica di questo giocatore, veramente qualcosa di inspiegabile. Pradé ha parlato di Pradé, di dirigente della Roma, ha parlato di Borriello e Adriano, sentiamo. Sta facendo alla grande, si è inserito nei nostri meccanismi, è un bomber puro, e abbiamo un attacco che è veramente di altissimo livello, dove il mister può contare su parecchi cambi. Adriano ha bisogno di tempo, ha bisogno di essere recuperato sotto tutti i punti di vista, noi ci stiamo lavorando, ci vuole un po' di pazienza. Il discorso del peso adesso è relativo, dopo 2 mesi, è vero che ancora non è al 100% fisicamente, però lui deve giocare, deve trovare la continuità, deve sentire quello che gli dà questo stadio. È entrato, l'hanno applaudito, l'hanno incitato, un calciatore come lui deve vivere di questo, deve vivere di sensazioni, di emozioni, e noi cerchiamo di darlo. Oh, ma tutto questo è molto bello e anche molto nobile, però insomma, sentendo che il problema del peso dopo 2 mesi non è più in realtà un problema, mi domando se 2 mesi fa Adriano sia arrivato con un aereo o con un cargo, perché sinceramente secondo me è una domanda che ci può stare. C'eravamo delle indicazioni in controluce, per esempio Seedorf a fine partita, nonostante il risultato positivo e nonostante fosse evidentemente di ottimo umore, perché il pubblico dell'Ajax, società in cui lui è cresciuto, gli ha riservato una grande accoglienza e l'ha salutato alla fine quando è uscito dal campo a pochi minuti dal termine, gli ha riservato una sorta di standing ovation. Seedorf ha messo gli accenti su qualcosa che a parer suo non funziona, sentiamo. Non mi è piaciuto il nostro gioco in generale, credo che stiamo giocando troppe palle lunghe in generale, quella è una cosa che dobbiamo migliorare, perché non dobbiamo fare l'errore di pensare che Ibra possa risolvere tutto, perché sennò si finisce come ha fatto all'Inter, specialmente in Champions. Non proprio un pallone sonda di quelli leggerissimi, tant'è vero che è arrivata a tempo, insomma a stretto giro di poste è arrivata la risposta dell'allenatore di Allegri. No, abbiamo alternato, io credo che invece potevamo sfruttare meglio un pochino più la verticalizzazione con qualche inserimento da dietro, credo che il gol e le situazioni più favorevoli siano nate da alcune giocate molto semplici che ci hanno permesso di andare davanti al portiere. E bisogna ancora migliorare, bisogna lavorare, purtroppo non abbiamo neanche tempo per provarle perché giochiamo ogni 3 giorni, però sicuramente la squadra sta crescendo anche di condizione fisica e mentale, e questa è una cosa importante. Sì, però la spingardata di Seedorf a destinazione è arrivata. A proposito di Seedorf, scrive un ascoltatore, Alessandro Meiattini, scrive: per la trasmissione di oggi le suggerirei, la mail è arrivata stamane, di richiamare quell'altro ascoltatore che giorni fa sosteneva che il problema del Milan era Seedorf e non da quest'anno, giusto per sapere dopo la partita di Amsterdam cosa ne pensa oggi e cosa ne pensano tutti quelli che come ogni domenica lo fischiano a San Siro. Con gli spazi nella difesa dell'Ajax, scrive Andrea da Milano, con Ronaldinho il Milan avrebbe vinto facilmente, manco Bliss e Toccalloni avrebbero sbagliato i palloni che ha sbagliato Robinho sotto porta. In effetti almeno uno dei due errori di Robinho, diciamo tutte e due, insomma, almeno uno dei due è abbastanza incomprensibile. Tra poco le vostre opinioni, i vostri interventi. Adesso sentiamo come va sulle strade. Roberto da Belluno si domanda: ma la Roma non ha proprio nessuno da inserire al posto del giocatore di Sumo? Roberto, io credo che la Roma, una volta messa in piedi e conclusa questa operazione, a parer mio assolutamente inspiegabile, ma non inspiegabile oggi, è inspiegabile prima, adesso abbia il dovere, no? di tentare il recupero, e quindi è giusto che in una situazione come quella di ieri sera Ranieri cominci a provare con i 20 minuti, 25 minuti, poi che ieri sera sia uscito Menes per Adriano, insomma, è molto ma molto discutibile. Poi è vero che si gioca ogni 3 giorni e che quindi mi pare ci sia Napoli-Roma domenica e Menes con un tempo in meno nelle gambe potrebbe essere prezioso contro la difesa del Napoli, che in casa, l'ha dimostrato anche il Chievo quest'anno, non sembra essere proprio insuperabile. Quindi ci sono alchimie e dosaggi che riguardano anche il campionato. Però certo che l'Adriano visto ieri è imbarazzante, ecco, credo che sia un'espressione giusta. Un'espressione che invece non piace a Michele da Verona è presi a pallate, dice, la prego, è orribile, non lo dica più. non lo so, a me funziona perché mi sembra che renda abbastanza l'idea di momenti di superiorità abbastanza netta, come per esempio i rumeni hanno avuto ieri sera all'inizio e alla fine. Però se non le piace, va bene, cercherò di cambiarla, cercherò di usarne qualcun'altra. Roberto da Mondovì dice che il Milan è sempre più sulla strada giusta, e pazienza se Robinho e Boateng si sono mangiati un paio di gol, e che bene ha fatto Gagliani a prendersela con l'arbitro. Vabbè. Giuseppe da Milano, buongiorno. Buongiorno Garantini, complimenti per la trasmissione. Sì. No, niente, io volevo chiederle un'opinione sulla mia riflessione. Sono un tifoso del Milan, non riesco a capire come il Milan possa aver comprato Rubinho e non comprato Hernanez quando un anno fa Leonardo aveva proposto e caldeggiato il suo acquisto. Adesso lo vedo alla Lazio per una cifra non irresistibile, secondo me, come l'ha comprato la Lazio, e dunque vorrei una sua opinione su questa strategia del mercato che ritengo abbastanza strana. Giuseppe, se le rispondo la verità, o perlomeno quella che io ritengo la verità, poi mi accusano di fare politica, no? Cosa che proprio è l'ultima mia ambizione. Però la verità è che quando lo scorso anno c'era Hernanes, e non solo Hernanes, disponibile, il presidente del Milan non era interessato ad acquisti, semmai a cessioni, era in fase, diciamo, di rientro. Ma poi questa non è nemmeno politica, direi che è economia e finanza, e cioè la strategia di chi oggi regge, cioè dei suoi figli, o perlomeno di un anno e passa fa, reggendo le sorti del gruppo, avevano deciso che gli investimenti del Milan per il momento erano sufficienti. Poi quest'anno si è creata una situazione diversa, e stavolta non più tanto finanziaria o economica, bensì politica, proprio nel finale di mercato, e il Milan ha deciso di fare, o meglio, il presidente del Milan ha deciso di fare qualcosa di eclatante che servisse, diciamo, su entrambi i fronti. Operazione, a parer mio, perfettamente legittima. Ora, mentre la prima operazione non si prestava a censure di nessun genere, perché è ovvio che, o a dubbi di alcun genere, perché è ovvio che la sua carriera dimostra come Ibrahimovic sia un giocatore in Italia decisivo, nel nostro calcio decisivo, quello di Robinho è stato un altro colpo su cui forse si poteva riflettere. Ma se la domanda è perché un anno fa no, un giocatore magari più bravo, e adesso invece sì, credo che la risposta sia soltanto quella, e che sia nei fatti e non nelle interpretazioni. Rossano è in linea da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini, complimenti per tutto. È la prima volta che chiamo, quindi spero di riuscire a spiegarmi. Una considerazione, sì, sul Milan partendo dall'Inter. 15 giorni fa a Enschede 2-2 contro la squadra, se non sbaglio, campione d'Olanda. Sì. Il Milan giudicato tra l'altro un pareggio insufficiente, diciamo, dalla stampa. Ieri sera il Milan ha pareggiato con l'Ajax, che l'anno scorso, se non sbaglio, perse con la Juve in Europa League. Non vorrei sbagliarmi, ecco. No, dico, le considerazioni sempre sull'Inter e sul Milan. L'Inter, a mio avviso, sta giocando bene quest'anno con Benitez, ha i suoi problemi, però vedo un buon gioco per il momento. Però ecco, anche domenica sera Roma, sconfitta, però penso una sconfitta nemmeno tanto meritata, ecco. Però l'Inter è sempre un po' massacrata, mi sembra, sbaglio o... Pronto? Pronto, prontissimo una a dirle. Scusi, una sua considerazione, ecco, spero di esservi spiegato. Sì, ecco. Si è spiegato molto bene. E poi una cosa, complimenti per la trasmissione che lei faceva, se non sbaglio, anni fa, su Rai 3. Sì, ma quella era nei tempi della prima comunione. Grazie comunque, grazie Rossano. Dunque, sì, è vero che ci può essere un po' di... un pochino di disparità di trattamento ci può essere, e comunque un pochino, se vogliamo un pochino, però è in rapporto alle attese, e questo credo che sia perfettamente normale. Cioè se campione d'Europa in carico fosse il Milan, probabilmente toccherebbe al Milan essere non nel mirino, ma semplicemente creare attese superiori a quelle che invece crea il Milan in questo momento in Europa. Lo so che fa un po' ridere essendo una squadra pluridecorata com'è, però se non un outsider, comunque è una squadra che non è tra le principali candidate, mentre chi invece il trofeo lo detiene è autorevolmente quanto automaticamente tra le candidate principali alla vittoria finale. Quindi è normale che un debutto in chiaroscuro come quello dell'Inter a Enschede contro il Twente abbia suscitato qualche perplessità in più rispetto alla partita del Milan di ieri sera, che comunque gioca, poi che abbia vinto o perso recentemente non ha molta importanza. Insomma, tra Twente e Ajax, l'Ajax ti riempie un po' di più la bocca, no? Se non altro per i quarti di nobiltà che indubbiamente può vantare, ma poi anche direi per la dinamica di quella partita, perché l'Inter l'aveva apparentemente risolta in avvio e poi invece si era fatta rimontare. Insomma, prendere due gol quando sei in vantaggio fuori casa sul campo di una squadra buona ma certamente non di più, qualche perplessità la poteva superare. Stamani in una clinica di Reggio Emilia è morto Bruno Giorgi. È stato un signor allenatore e soprattutto un allenatore signore. Aveva 69 anni e a darne notizia è stato il sito del Cagliari, perché nel Cagliari Giorgi aveva ottenuto alcuni dei suoi risultati migliori, per esempio le semifinali di Coppa UEFA del 93-94, battuta poi in semifinale dall'Inter dopo aver eliminato ai quarti la Juventus. Quelli erano gli anni in cui le squadre italiane dominavano la UEFA e la UEFA era qualcosa più della Europa League di oggi. Il Cagliari lo ricorda come un gentiluomo cresciuto nel rispetto delle persone, un ottimo allenatore cui mancò solo la ciliegina di un trionfo personale, a cui andò vicino anche nel 90 con la Fiorentina, quando, a proposito di UEFA, perse la finale UEFA contro la Juventus di Zoff. Bruno Giorgi, un signor allenatore, ma soprattutto un allenatore signore. Paolo dalla provincia di Firenze, buongiorno. Signor Garanzini, dica. Io telefono a proposito di telecronista Sandro Piccini. No, io non voglio commentare la parte, cioè nel senso, è un bravissimo cronista, ma l'enfasi ora su un campo nazionale, io posso essere anche per i Cagliari, per il Messina, per il Palermo, per la Roma, ma in campo europeo, a giudizio mio sono tifoso, forse non sono obiettivo. Quando fanno con gli altri, poi è fuori giochi, ma forse c'era, ma forse non c'era. Cioè, sui Milan, io per conto mio fossi Mediaset Premium, io non lo farei cosare le partite di Milan, perlomeno da parte di un tifoso. Sì, forse io non sono obiettivo, posso essere anche richiamato da lei, perché giustamente, ma sento una voce, non so, quando fanno con gli altri, so, in campo internazionale se fa uno contro una squadra italiana, io sono per il Milan, ma se lo fanno contro l'Inter mi dispiace. Paolo, io non mi permetterei mai di richiamarla, capisco cosa intende, però stiamo parlando di tendenze e stiamo parlando di un momento storico che è così. E che prescinde dal telecronista che lei ha citato e riguarda un pochino tutti, ma lei pensi che quella che Mediaset manda in onda con la voce di Sandro Piccinini è la telecronaca, come dire, neutrale, cioè la telecronaca, no, neutrale magari non esageriamo, è la telecronaca normale. Lei pensi che da anni ormai, e se non lo sa la informo, ma se lo dimentichi subito, lei pensi che da anni esiste l'opzione della telecronaca tifosa, nel senso che gli Inter Channel, i Milan Channel, non so i quanti channel, la partita te la danno in due o tre versioni, in due o tre piste si potrebbe dire, ma non vorrei. Una di queste è la telecronaca con versione tifosa, in cui c'è gente, il Napoli, ci sono delle. Cioè, lei scoprirebbe un mondo inesplorato che sinceramente non mi sentirei di augurarle, ma questo è solo per dire come è cambiato, no? Come tutto è diventato diverso. Poi c'è qualcuno che lo ritiene più divertente di prima. Nella seconda parte del programma, a proposito di come è cambiato il mondo del calcio, avremo un richiamo all'ordine di quelli che secondo me ci aiuterà tutti in una riflessione seria. Davide è in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo solo far presente una cosa. Domenica prossima si disputerà Inter-Juventus e l'anno scorso per questa partita, ordine del prefetto, non venivano venduti assolutamente biglietti, anche ai residenti a Milano, in Lombardia, per motivi di ordine pubblico, e dunque lo stadio era praticamente mezzo vuoto, c'erano soltanto i tesserati. mentre per quest'anno la vendita è libera, assolutamente libera, e volevo chiedere a lei, se magari lei aveva notizie, di capire cosa è cambiato in 3 mesi, perché l'anno scorso non si poteva andare, non potevano partecipare i tifosi ospiti, e invece quest'anno è aperto a tutti. È una, non ne ho idea, è una interessante segnalazione, a cui non saprei dare risposta. Magari nei giorni prossimi proviamo a capire. Che si sia stemperata la tensione tra le parti, no. Che ci siano stati gesti di buona volontà per riavvicinare le due società, a cominciare dai due presidenti, per come si sono beccati nelle settimane scorse Moratti e Agnelli, per, diciamo, pure futili motivi, anche da questo versante segnali positivi no. Quindi non lo so, forse è scoppiato il buonismo, oppure forse si è deciso di, si è pensato che la testa del tifoso abbia risolto chissà quali problemi. Secondo me si sta continuando a viaggiare a fari spenti, e non dico a che velocità. Ascoltiamo la seconda parte del programma, e secondo me in quest'ottica, in questa chiave, qualcosa di più capiamo o ripassiamo. Comunque adesso sentiamo come va sui mercati. Diego Milito, leggo da un'agenzia uscita da poco, non ce l'ha fatta a recuperare e non sarà in campo stasera contro il Werder Brema. Fuori Milito, sarà Eto'o a giocare da centravanti. Spazio ancora ad un paio di ascoltatori in attesa di perfezionare quel collegamento di cui vi dicevo. Livio ha chiamato da Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sembra di aver capito che adesso parlate del calcio di altri tempi, se ho capito bene. Prossimo... forse ho capito male. No, ho capito abbastanza bene, ma in termini di civiltà, non in termini... No, ma infatti, io di quello volevo intervenire. Io ho 60 anni, volevo raccontarle un piccolo aneddoto, magari lei conosce già. Comunque, la Juventus veniva a allenarsi a Cuneo negli anni 60, 62, 63, io allora avevo 10-12 anni. Sì. I giocatori di allora erano nomi tipo Charles, Sivori, e... l'allenatore era Eriberto Herrera, cioè gente che oggi sarebbe di prima grandezza se fosse a calcarsi i campi di oggi. Ebbene, allora la squadra giocava, si allenava su un campo di calcio che era 1,5 chilometri dall'albergo in cui dormivano e vivevano durante la settimana. Ebbene, andavano a piedi da quell'albergo, oggi li porterebbero come minimo con l'elicottero. Noi bambini... io avevo 10 anni, la bicicletta mia era troppo piccola, portavo quella di mio padre, stazionavamo davanti alla porta dell'albergo, i giocatori quando uscivano per non fare quel tratto a piedi ci caricavano sulla sbarra della bicicletta e con loro andavamo al campo di calcio. La stessa cosa. Non è male, caro Livio. Mi viene in mente quando negli stessi anni, anzi pochi anni prima, Rocco, i giocatori di Rocco uscivano dal ristorante alla domenica ed erano accompagnati a colpi di pacche sulle spalle verso il mitico Appiani. Allora, entriamo nell'argomento portante di oggi, che è questo. Voi vi ho informato sinteticamente lunedì di un episodio di rara gravità accaduto domenica al termine di Alessandria Gubbio. Ieri vi ho dato qualche particolare in più, la storia la do per conosciuta, ma stamane ho letto sulla Gazzetta qualche particolare in più. Ho letto per esempio che sia questo giovane portiere 21enne riempito di botte da ma non si sa bene se da ultra o da semplici delinquenti, comunque non da quattro pirla come ha detto ieri il ministro dell'interno, e suo padre insomma hanno serie perplessità perché si sta dando una versione dei fatti che non è probabilmente quella vera. In ogni caso, ad Alessandria, dopo qualche tentativo, come dirlo, che si può anche capire umanamente, no? di fronte a un episodio così inedito, di tergiversare, il legale dell'Alessandria ha dichiarato ieri che la società si costituirà parte civile contro qualsiasi persona che verrà denunciata a proposito di questa aggressione. Ma sulla stessa Gazzetta di oggi ho letto una lettera firmata Gigi Simoni. Gigi Simoni è dallo scorso anno, forse da un paio di stagioni, adesso glielo chiederemo, direttore tecnico del Gubbio. e cioè della squadra il cui portiere e i cui genitori sono stati aggrediti selvaggiamente domenica alla fine di una partita. Allora, visto che è collegato con noi, intanto lo saluto. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Sì, certo, è un festival di Gigi, come sempre quando ci capita di sentirci. E io ti domando subito se preferisci che parte di questa lettera pubblicata stamana della Gazzetta, ripeto, la legga io, o se invece la vuoi leggere direttamente tu. Come ti va? No, se la leggi te è meglio, perché la leggi sicuramente meglio di quanto la leggerei io. Non esageriamo. Io ho il principio, è chiaro che... Vabbè, allora ci diviamo i come. Tu l'hai scritta e io la leggo con enorme piacere e poi ne parliamo insieme. Non la leggo tutta, leggo la parte iniziale più significativa. Sì. È una lettera, ripeto, firmata, anzi griffata, Gigi Simoni. Il titolo che la Gazzetta gli ha fatto è "Questo mondo non è più il mio" e dice così: "Sto pensando seriamente e con molta amarezza di dare le dimissioni dal calcio. Non è un granché, ma forse è l'unica cosa che posso fare in questo triste momento per stigmatizzare quello che è successo nella civilissima Alessandria. La mia passione per il calcio non ha confini, tant'è vero che non ho staccato mai la spina da questo mondo nel quale vivo ormai da 55 anni. Oggi mi diverto, o meglio mi divertivo, a fare il direttore tecnico a Gubbio in C1 dopo che l'anno scorso abbiamo vinto per la prima volta nella storia del club i play-off in seconda divisione. Domenica c'era Alessandria Gubbio. Noi giochiamo meglio, noi giochiamo forse meglio, loro vincono. Nel calcio capita spesso, onore ai vincitori. Tutto fila tranquillo, poi succede l'incredibile. Eugenio Lamanna, accompagnato dai suoi dolcissimi e premurosi genitori, che sono tra le persone più educate e rispettose, sono stati barbaramente picchiati. Mi chiedo, siamo impazziti?" Ecco, io mi fermerei qua, perché a questa domanda vorrei che tu provassi a rispondere, no? L'hai posta e adesso proviamo a vedere se riusciamo a trovare una risposta a questa domanda. Ma io dico, siamo impazziti perché non c'è ragionevolezza, non c'è motivo. Sai, io il calcio è verità, è un dato di fatto. Dal 55 io vivo in questo mondo, 1955. E ne ho viste di tutti i colori, ho visto delle cose anche gravi come queste, forse anche più gravi, però alle quali davo sempre una spiegazione. Una volta c'era di mezzo l'arbitro che aveva aiutato uno, una volta sì, c'era un giocatore che aveva provocato, a volte c'era un risultato che era talmente ingiusto che la gente si ribellava. Cioè, in questa partita tutto è andato... come un tifoso dell'Alessandria potesse sperare. Certo. No? Perché è andato bene, hanno vinto. Infatti, una delle parole che questo ragazzo, il nostro, penso, mi ha detto di aver detto alla gente, quando ha visto che erano così esagitati, ha detto: "Ma avete anche vinto. Cosa volete? Cosa volete?" Cioè, allora dico, senza una ragione, perché nella gioia potevano anche dire "siete stati bravi". Io ho ricevuto diversi complimenti dalla gente di Alessandria dicendo: "Abbiamo vinto, però voi siete una bella squadra, avete fatto bene". Ecco, io dico, andar fuori, sarà perché io conosco queste persone, non lo so, mi ha scandalizzato più di altre sì, cose che ho visto, perché sono persone che lavorano, che partono alla domenica mattina per venire a vederci dove siamo, Cosenza o l'anno scorso in campi incredibili, vengono, non si fanno mai vedere, sono delle persone nobilissime, affezionate tra di loro in un modo che tutti vorrebbero avere forse una famiglia così. Allora, conoscendo questa storia, poi vado fuori dal campo domenica e c'erano proprio loro sul cancello. E parlo con il ragazzo, con Eugenio, e dico: "Dai Eugenio, allora, mister", lui è uno anche abbastanza sempre un po' triste così, e ho detto: "Ma dai, è andata bene, avete fatto una buona partita, te hai fatto due o tre parate belle", e andando lì ho detto: "Dai, fammi un sorriso che ti voglio vedere sorridente, non così". E poi parti in macchina, dopo mezz'ora ti chiamano e ti dicono: "Vai, è successo questo". Allora ti viene dentro e dici: ma cosa ci sto a fare? Cioè, non vale la pena. Evidentemente. Adesso si comincia, perché c'è un escalation in tutte le cose, no? Adesso o fai le cose in grande o niente. Siamo arrivati a picchiarsi, a picchiare una donna, a picchiare una famiglia, nel momento in cui il padre vede picchiare il figlio sanguinante, la mamma con i capelli tirati in terra e gli portano via la borsetta. Cioè questo trio, no, di persone, madre, padre, figlio, che uno magari non si preoccupava nemmeno di se stesso, però che vedeva il figlio picchiato, il padre picchiato, la mamma, cioè a me è una cosa che mi fa venire i brividi. Lo so. È una cosa che non giustifico, cioè magari giustifico i tifosi, gli ultras, che l'arbitro allora sì, vai e sì, protesti, sì, o qualche giocatore fa una cosa fuori da, ma così dico, allora non c'è più proprio neanche esatto, la ricerca del motivo. Certo, non c'è più la ricerca del motivo. E allora questo mi ha fatto pensare, dico, ma cosa ci sto a fare? Io vivo con questa passione del calcio nel mio cuore, così, e devo poi sopportare o subire delle situazioni o vedere delle cose del genere, e mi viene un po' così la voglia di andarmene. Ecco, Gigi, è una di quelle volte in cui faccio più fatica ad interrompere una conversazione, però ci sono obblighi radiofonici. Ti devo togliere la parola per un minuto e poi riprendiamo, e riprenderei da un altro passo della tua lettera. Sentiamo come va sulle strade. Proseguo nella lettura della lettera prima di ridare la parola a Gigi Simoni. Scrive Simoni: non si può sorvolare su un episodio del genere perché è capitato fuori da un campo di serie C. Non esistono persone di serie A e di serie C, esistono le persone. Questo è evidentemente un calcio che non mi appartiene più, forse è un mondo che non mi appartiene più. Mio figlio, che ha 11 anni, era allo stadio con me, con le lacrime agli occhi mi ha chiesto: papà, perché hanno picchiato Eugenio e i suoi genitori? Già, perché? Non ho saputo rispondere. Non si può e non si deve restare indifferenti, così come certe persone non possono restare impunite, altrimenti questo mondo rischia di non appartenere più neanche ai nostri figli e ai nostri nipoti. Siamo ancora in tempo per fare qualcosa. Beh, Gigi, io devo dire che hai scritto una lettera di rara bellezza, perché queste sono le domande che in casi di questo genere davvero bisogna porsi. Cioè, se cominciamo subito a fare qualcosa, ma la domanda è che cosa, siamo in tempo a salvare questo mondo almeno per figli e nipoti? Perché per noi già mi sembra dura. Sì, per noi è un sogno che non si può avverare, però insomma penso che conti poco, purtroppo conta poco. Io ho visto anche nella vicenda poco interessamento, e adesso le persone che hanno una sensibilità possono dire c'è tempo anche per pensare a una cosa del genere, come puoi essere te o come sono io, però è una cosa a mio avviso che va affrontata. Cioè qua adesso si parla, no, forse ho letto il giornale, quindi io non è che, cioè, forse verrà fermato solo quello che ha dato il primo pugno. Sì. Ora io dico, questa qui è una vicenda che investe, non so, penso 12-13, c'è anche qualche donna di mezzo, e poi gli altri persone che io non so giudicare o conoscere, però ecco, ne verrà fermato uno solo. Poi cosa facciamo? Gli diamo, dice, per 10 giornate non puoi andare a vedere le partite, poi quelli ci vanno lo stesso. E quelli che tenevano il padre, o quelli che hanno buttato in terra la mamma, cosa niente, facciamo? Niente. Passiamo sopra. Ecco, io questa impotenza probabilmente mi fa un po' paura. Lo credo. Perché è un'impotenza o una mancanza di volontà, capito? Nel cercare, dice, questi sono 12, 14, quanti erano quelli, mettiamoli dentro tutti, li lasciamo lì, diamo due legnate anche, non so, prima di mangiare, poi, cioè, facciamoci almeno, dire, nel momento in cui vieni a capo di una situazione, pare che un paio o uno col papà sia andato anche a trovare il ragazzo, no? Sì. Ma ecco, dove va a trovare il ragazzo a dirgli cosa? Per fargli dei nomi magari di quelli che erano lì che picchiavano, ma anche da vigliacchi, perché cioè, sono persone queste che non puoi far finta di niente, dice no, ma così li conosciamo, magari la polizia può arrivare, speriamo di no. a dire io ho paura di questo, e dice sì, li conosciamo, però cosa vuole, quello che ha dato il pugno primo magari lo fermano, poi gli altri, ma gli altri sono forse peggio, chi ha buttato in terra la mamma pare gli abbiano tirato i capelli, sono rimasti scioccati da questa vicenda, e noi questi qui li lasciamo girare tranquillamente, perché tanto il mondo è questo, no? Certo, Gigi. Dato che si può, qui ci si può arrivare a chi sono, perché anche Eugenio ha detto io li conosco tutti, li riconoscerei. Li riconoscerei tutti, l'ha detto di preciso. Fanno vedere un po' e poi, ma che stiano dentro, ma che ci sia la sensazione che qualche cosa funziona, si difende, perché certo, se solo contro 15 non ti puoi difendere. Che c'è un prezzo da pagare, che c'è un prezzo da pagare. Secondo me è una cosa brutta, ti ho detto, è un po' diversa da tutte le vicende che anche violente così ho vissuto direttamente, perché te sai che in 55 anni me ne possono essere capitate di tutti, soprattutto quando il calcio era ancora meno controllato di oggi, però questo mi fa effetto perché non hai difesa, non sei supportato neanche, io avrei voluto vedere la ricerca immediata di questi, certo, e poi metterli dentro e poi rendersi conto che questa qui è una violenza inaudita senza una ragione, che non ha una ragione, certo, perché quando leggi una cosa dice questo qui è arrivato a casa, ha litigato con la moglie, sono presi per i capelli, uno ha ammazzato l'altro o la moglie, ma cioè, almeno dici questi qui hanno litigato, c'era un motivo, ma noi non abbiamo fatto niente per meritare, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo perso pur giocando bene, vieni fuori, nessuno ha detto niente, tutti con grande cortesia, anche quelli dell'Alessandria nei nostri confronti, perché io sono andato a fargli i complimenti all'arbitro che aveva arbitrato bene, ci aveva dato anche un rigore contro, però evidentemente c'è una voglia da parte nostra di drammatizzare un po' le cose e di essere così uno che mantiene il rapporto con le altre società, con gli altri che fanno il tuo stesso lavoro con piacere, ma qui invece vieni picchiato in questo modo selvaggio senza che qualcuno ti dia la sensazione di dire no, ho parlato io, ho parlato chi ha parlato, ma chi, pochi insomma, via. Certo. No? Di questa vicenda ha parlato quello perché sì, pochino. Quello dell'Alessandria perché c'è pochino. Se si studia davvero l'accaduto come l'hai studiato tu, anche perché l'hai malauguratamente vissuto da vicino, io credo che rispetto a tante sciocchezze che ho sentito nelle scorse settimane sullo sciopero dell'AIC, io credo che forse ci stava qui, eh? Detto tra noi, anche a me fanno ridere, però. Ecco, bravo. Detto tra noi ci stava di più qua. Gigi, mi dispiace soltanto che il tempo sia finito, sì, e che mi resti soltanto quello per ringraziarti per questa testimonianza civile è stato un piacere per me, e appassionata. Te mi conosci, sai che sono. Certo che ti conosco. Certo che ti conosco, fede, e so che quella lettera l'hai scritta col cuore, non certamente per la vetrina. Certo. Un abbraccio. Va bene, anche a te. A Gigi Simone. Ciao, grazie. Chiudiamo questo collegamento. Non so se riusciamo a mandare almeno la rubrica di Nicola Filippone per ricordare che cosa è successo nella data di oggi, velocemente. Sembra ieri. 29 settembre 1974. Francesco Moser, 23 anni, alla seconda stagione da professionista, ottiene il suo primo successo internazionale, imponendosi nella classica Parigi Tour. Il ciclista trentino in realtà al traguardo arriva secondo, alle spalle dell'olandese Gerben Karstens, che però viene squalificato perché non si presenta al controllo antidoping. In carriera Moser ha vinto complessivamente 10 classiche, tra cui 3 Parigi-Roubaix consecutive tra il 78 e l'80 e la Milano-Sanremo dell'84. Mi aveva anche segnalato Nicola Filippone che il 29 settembre del 73 in Italia-Svezia 2-0 a San Siro, Riva aveva segnato il suo 34esimo gol in maglia azzurra, il che significava che quel giorno superò Meazza nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi, prima di fermarsi poi a quota 35. Grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanini in redazione, a Gigi Simoni, ripeto, per la sua deliziosa partecipazione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, a domani. We'll be right back. Tempo di Sport.